Perché piangiamo? Edito da Fatatrak. Mario stava zitto da un po', pensieroso. Sua madre aspettava paziente al suo fianco e alla fine un filo di voce, come un sussurro, uscì dalle sue labbra. Mamma, perché piangiamo? E la mamma rifletté per qualche secondo, poi rispose: vedi Mario, piangiamo per molti motivi, a volte piangiamo perché la tristezza che sentiamo è così grande che il nostro corpo non riesce a contenerla e deve uscire da qualche parte. E altre volte piangiamo perché ci riempiamo di rabbia e dobbiamo scaricarla, come la nube nera carica di pioggia, e dopo, come la nube, recuperiamo il nostro colore. Piangiamo perché non capiamo il mondo e le lacrime escono per esplorarlo in cerca di una risposta. Alcuni giorni piangiamo perché invece che un abbraccio troviamo solo un eco. Piangiamo perché ci aiuta a crescere. Ogni lacrima ci annaffia molto lentamente. Se non piangessimo, ci trasformeremmo in pietre. Sai, alcune persone piangono perché per loro gridare per ore non è sufficiente. Altre perché guardano cosa gli accade, chiuse in loro stesse. Ma anche così le lacrime riescono a scivolare fuori. Piangiamo perché tutti i colpi sono dolorosi, Mario. Alcuni lasciano segni sul nostro corpo, altri dentro di noi. E le lacrime sono il balsamo degli uni e degli altri. A volte piangiamo quando sbattiamo contro un muro. Queste volte più che il colpo è l'altezza delle pareti a farci male. Piangiamo perché siamo in un mare immenso e non possiamo evitare nemmeno la tempesta. E quando passa il mare torna calmo. E fa disegni sulla riva. A volte piangiamo perché non troviamo le parole giuste. Fortunatamente le lacrime parlano una lingua infinita, universale. Però la maggior parte delle volte piangiamo perché abbiamo voglia di piangere. E questo forse è il motivo più importante. Mario abbracciò la mamma con tutte le sue forze, poi le dette un bacio sul naso come faceva quando era piccolo. Grazie mamma, ora mi sento molto meglio. Sei la migliore mamma del mondo, però perché stai piangendo? Per la felicità, amore mio. Si può piangere anche per questo.